and your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelt. Ore 21.04, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, anche per oggi 22 marzo 2017. Contatto telefonico di questa emittente 06 49 1750, sito internet in questo momento già particolarmente frequentato. Lo streaming di www.ondarossa.info. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info e in questo momento per quanto riguarda questa trasmissione c'è questa chiacchierata con chi ci sta ascoltando e sono molti attraverso la pagina DJ Elettrodo. Domani la playlist e il podcast nella pagina prove tecniche di trasmissione /disorder. Salutiamo Alessandra, Raffaele Pezzella da Napoli, Antonio da Firenze, Gabriel Eldri da Londra, from London, il buon Giovanni Lisi da Bari, Maurizio Pustianaz da Torino, Like Wake qui da Roma, Riccardo Martucci da Taranto, Simona da Pistoia. E sempre qui da Roma il buon tenente Dan, anche lui affezionato a prove tecniche di trasmissione. Spazio che dovrebbe essere l'ultimo per oggi, giacché 25 o'clock, a meno di cambiamenti all'ultimo momento, non dovrebbe andare in onda. Lo abbiamo salutato inizio Giovanni Lisi. E Giovanni Lisi, oltre ad ascoltarci, è anche un valente musicista attraverso Cordis Cinti Serpente, un progetto storico della scena esoterico-industriale. Ultimamente si è rimesso in moto e ci ha donato una interessantissima traccia, prodromo di un lavoro futuro, spero. Si chiama Cenobitorium 1. Eccolo qua, Cordis Cinti Serpente. Il ritorno dunque di Cordis Cicti Serpente, progetto di Giovanni Lisi. Si chiama Cenobitorium 1, speriamo un'anticipazione di un lavoro sulla lunga distanza per questo artista pugliese. Apprezzato anche dagli amici qui all'ascolto di prove tecniche di trasmissione. Risalutiamo Alessandra, intenta a gustarsi la cena e a usare noi come sottofondo. Viene evocato il tempio della gioventù psichica, il ritualismo, il dark ambient, e la tradizione italiana si conferma validissima anche attraverso Giovanni Lisi. Una tradizione, una realtà elettronico, ambient, sperimentale, confermata anche da Diaspora Psichica di Riccardo Martucci, sempre dalla Puglia. Abbiamo oggi il Sud ampiamente rappresentato qui a Prove Tecniche. Questo è EPROM, secondo lavoro per Diaspora Psichica. È già partita Dalet, ci ascolteremo Vertigo e Eternum. Thank you. ancora Diaspora Psichica, e salutiamo anche Globo Oscuro di Emiliano Pietrini da Livorno, un abbraccio a lui, sempre da EPROM, Diaspora Psichica. Ampio spazio riservato meritatamente a EPROM di Diaspora Psichica, uno dei progetti più interessanti degli ultimi tempi, influenzato ritengo dal trittico Last Mord Anti-Group e anche Biosphere nella sua parte più dilatata. Il sale, la ferita, la corda, il collo, si recitava in Eternum, una bellissima traccia insieme a Vertigo e Dalet da questo EPROM. Un saluto dunque a Riccardo Martucci a Taranto. E a dimostrazione della estrema salute che gode questa scena, secondo me, a parte la presenza anche di Like Awake che ci sta ascoltando, che tutti conosceranno, andiamo anche a sentirci Raffaele Pezzella, ormai protagonista delle compilation che riguardano tutto il mondo sperimentale, ma lui ci delizia anche come sonologist. Si chiama, guarda un po', An Express Sounds, questo lavoro del 2015, con molti campionamenti della NASA, suoni dallo spazio, un ritualismo del futuro, se vogliamo. Ebbene, ci ascoltiamo Sound Cross Light, Mermaid, Arecibo Collection. Arecibo? Collection, sì. La colpa è mia perché, essendo leggermente presbite, mi sono scordato gli occhiali e qui è scritto un po' piccolino. Sicuramente, comunque, sonologist. E dopo Mermaid, Recipro Collection, sempre Sonologist da Unexplained Sounds, Onda Rossa 87.9. Effettivamente una ottima tripletta italiana con la quale abbiamo iniziato prove tecniche di trasmissione per oggi, 22 marzo 2017. Il buon Pezzella, oltre a menzionarci le note di copertina di questo disco, di questo Unexplained Sounds, ci fa vedere forse la prima versione in cassetta di qualche anno fa. Io ho questa versione digitale, questo ottimo disco. Lasciamo l'Italia e andiamo negli Stati Uniti, lo facciamo con Noin, con Boyd Rice, del quale abbiamo apprezzato in queste settimane questo album dal nome Might. Quest'ultimo passaggio riguarda The Demolition Man, Logic of the Spheres e Great Destroyers. Ancora da Might, questo è Non, e salutiamo Enrico Cerrato da Milano, una new entry che ascolteremo in futuro, già che è anche valente musicista come Petrolio e Gabbia Inferno, e quindi avremo anche il piacere di ascoltarlo e di conoscerlo meglio anche musicalmente. Mankind is a weary of its sham prophets, its demagogues, and its statesmen. It crieth out for kings and heroes. It demands a nobility that cannot be hired with money, like slaves or beasts of burden. The world awaits the coming of mighty men of valor, great destroyers, destroyers of all that is vile. Angels of death, we're sick unto nausea of the good Lord Jesus, terror-stricken under the executive of priest, mob, and proconsul. We're tired to death of equality. Gods are at a discount. Devils are in demand. He who would rule the coming age must be hard, cruel, and deliberately intrepid. For softness assails not successfully the idols of the multitude. Those idols must be smashed into fragments, burnt into ashes, and that cannot be done by the gospel of love. Era dunque Non con questo Might, un vecchio lavoro del 1995 per la Mute Records, veramente una istituzione. Eccolo qua, un altro grosso calibro, ossia Esplendor Geometrico, progetto spagnolo. Capistipiti di questa tendenza un po' tribale per quanto riguarda l'industrial. Questo è l'ultimo lavoro, Fluida Meccanica, uscito proprio sul finire del 2016. Questa è Todavía Más, alla quale seguirà Sonoi.